Signore, gentili signori, buonasera, benvenuti alla nostra nuova iniziativa con gli incontri, dedicata agli incontri con autori e autrici, e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Ferrandi, già caporedattore della Sedera di Bolzano, e con noi c'è il direttore del quotidiano Attuali, Gianberto Foschini, che ringrazio entrambi per la loro disponibilità e per aver accettato l'invito qui presso la Biblioteca Provinciale al Centro Trevi per presentare questo nuovo libro di Maurizio Ferrandi, sempre di carattere storico, una ricerca molto dettagliata e approfondita, diciamo il seguito di un primo volume presentato sempre qui l'anno scorso presso il Centro Trevi, ancora della biblioteca, e si tratta appunto di cronache parlamentari relative alla questione altoatesina. Questo secondo volume si intitola Dibattiti e dinamiche e ha come un ampio diciamo contesto temporale, perché va dal 1945 al 1992, quindi si avvicina anche a tempi più recenti, cui abbiamo una memoria molto più fresca anche grazie alla cronaca dei quotidiani. E la nostra biblioteca da tempo si occupa anche di storia locale, e in questo devo dire che Maurizio Ferrandi ci ha dato una grande spinta insieme alla casa editrice Alfaberta, che è rappresentata da Aldo Mazza questa sera e che da tempo si occupa del territorio e racconta l'Alto Adige in tanti suoi aspetti. Abbiamo preparato una vetrina tematica, se avete piacere e interesse di approfondire questi argomenti. Ricordo che la biblioteca da gennaio, ne approfitto sempre di questi momenti preziosi per fare alcuni spot pubblicitari, e la biblioteca provinciale dal 1 gennaio non manderà più le cartoline. Chi è interessato a rimanere in contatto con noi o ci viene a trovare durante il giorno e siamo qui al piano di sotto al mandolo di via Marconi, oppure ci lascia il proprio indirizzo email a cui mandare le nostre newsletter. Vi ricordo ancora due appuntamenti che avranno luogo sempre presso questa sala e in collaborazione con l'azienda di soggiorno, all'insegna di questa rassegna e Natale di libri, e precisamente lunedì prossimo alle ore 18 in questa sala sarà con noi Alessandro Marzomagno, che presenterà il suo libro Missione Grande Bellezza, mentre nei giorni dopo, precisamente il 14 di dicembre, sempre alle ore 18, sempre presso questa sala, sarà la volta di Paolo Cognetti, che presenterà il suo libro Vincitore del Premio Strega e Alto Montagne. Sarà presente in entrambi gli appuntamenti la giornalista Lorena Monforti. Lascio la parola ai nostri ospiti, sarà una serata sicuramente interessantissima, che ringrazio ancora per la loro presenza, ringrazio tutti voi e vi auguro una buona serata. Grazie a lei e grazie dottoressa Treviso, così insomma la teniamo nei due ruoli, che è un po' più amichevole con invece istituzionale. Allora, alcune cose, la prima è un'avvertenza, nel senso che spesso questi libri si leggono a puntata, cioè uno deve leggersi la prima puntata per capire la seconda. In questo caso non serve, nel senso che se uno inizia la lettura di questo capitolo, in realtà capisce tutta la storia, perché sono i 47 anni nei quali davvero si costruisce la storia dell'Alto Adige. Tra l'altro è interessante perché sia Ballardini sia l'autore in momenti diversi, cioè Ballardini all'inizio del libro, mentre per ovvie ragioni l'autore alla fine del libro, dicono che la questione è chiusa. Dicono anche non badate a quelli che la tengono ancora aperta, la questione è chiusa. Fra l'altro arrivando proprio al 92, che è ovvio che questa data è legata a una ragione storica, però ci si chiede anche, leggendo, proprio chiederò a Maurizio se ce l'avrebbero fatta due o tre anni dopo, nel senso che si rende conto che cambia tutto il paese nel 92. Cioè, se prima di Tangentopoli, per intenderci, non si fosse riuscito a chiudere tutto, probabilmente ne staremmo discutendo ancora. La questione sarebbe altissima. E leggendo questo libro si riflette molto anche su questo, cioè sul fatto che dal 92 ad oggi sono capitate poche cose, nel senso che sono capitati molti piccoli scambi, no? Cose di bottega, che capiteranno ancora. Tra l'altro mi sono permesso l'altro giorno, intervistando Rossi e Compace, di dire loro: ma approfitterete ancora delle svendite di fine stagione, no? Perché siamo arrivati a un punto in cui si è portati un po' a pensare che gli accordi con Roma non nascano più da mediazioni che durano 47 anni, ma da piccole cose di bottega, un voto che manca, un voto che c'è, e allora a quel punto cambia anche un po' la storia delle competenze. Se pensate che l'altro giorno abbiamo strappato di fatto l'acqua delle centrali, che sono un grandissimo tema, l'abbiamo strappato in un quarto d'ora, si rende conto di come si è cambiata anche la vita del Parlamento. Solo due considerazioni, perché poi io sono qui per fare un'intervista, e sapete che una delle cose più difficili al mondo è fare un'intervista a un giornalista, perché i giornalisti fanno delle domande e non danno mai risposte, quindi probabilmente ci faremo domande fra di noi. Il libro però è stato redatto, qui abbiamo questa garanzia prima ancora di iniziare. Alcune cose, tutti noi siamo portati a pensare, non vedo minorenni in questa sala, perché dico tutti noi siamo portati a pensare di conoscere questa storia. In realtà ti accorgi che conosci una grande storia, non le piccole storie. Cioè quando mi mette, non so, Hitler vicino a Churchill, ti rendi conto che forse Churchill certo te lo ricordi, magari non lo potevi ricevere la tua tesina, e magari non ti ricordi Hitler, non ti ricordi tanti personaggi minori, vedo per l'offerta di prima fila ci sono dei nomi che tornano ovviamente, per Goffa, Magnago, Moro. Bisogna anche rendersi conto, leggendo il libro, che parliamo di atti parlamentari, quindi parole che restano, e mentre tante volte si racconta la storia di Carlo V, questa è la storia ufficiale, però è una storia che non passa solo al Parlamento italiano, passa dal Parlamento austriaco, passa dal Parlamento inglese, e anche qui c'è un po' un colpo di scena, perché non potevamo immaginare, magari noi umili cronisti, che questa vicenda in quegli anni passasse un po' da tutti i Parlamenti, Austria, Germania, Inghilterra e Italia. Ci si rende conto che i protagonisti di quell'epoca hanno avuto un ruolo determinante, non per concedere, perché non avevano più i fucili puntati né alle tempie né alla schiena, ma per scegliere, per decidere, per cui è una strada che hanno costruito, non una strada che è stata imposta. È molto interessante come il primo libro di Maurizio finisca nel silenzio, nel senso che poi vengono messi a tacere tutti, inclusi cronisti storici, non solo politici e cittadini, per poi invece ricominciare a parlare proprio quando inizia il libro del 1945. E devo dirvi anche un'ultima cosa, che è un modo per osservare non solo la nostra storia, ma anche la piccola storia delle persone, la grande storia delle persone, perché attraverso questi interventi si capiscono davvero quelle cose che forse in alcuni casi nemmeno sapevamo. Cioè ci sono, io per dire, mi sono incuriosito leggendo Luigi Carbonari, no? Luigi Carbonari, questo parlamentare che a un certo punto prende la parola e si inferma, no? O di altri molti personaggi, poi magari ne parliamo. Ed è anche interessante che la prefazione sia di Renato Bernardini, che fra l'altro si toglie anche un sassolone alla fine della prefazione, perché sostiene che Ferrari non abbia capito fino in fondo il ruolo della Commissione dei 19, ma è un classico per chi ha fatto parte della Commissione dei 19, perché la Commissione dei 6 e la Commissione dei 12 hanno avuto un ruolo sicuramente più importante, e sono inizio nominati da un certo Giulio Andreotti, come sempre il commissario dei 6 e dei 12. Scherzeremo anche su questo, però la Commissione dei 19, nella quale Ballardini c'era, ha avuto un ruolo fondamentale, ed è interessante che il partigiano Renato Ballardini, che fra l'altro lo dico anche con una certa soddisfazione, insomma, è un editorialista importante del mio giornale, è interessante che il partigiano Ballardini, il parlamentare Ballardini, il consigliere regionale Ballardini intervenga invece in questo libro, perché molte di queste pagine lui le ha scritte nell'aula del Parlamento. La prima cosa che ti chiedo però è Maurizio, è molto banale, cioè chi te l'ha fatto fare? Nel senso che uno leggendo dice, ma quante diamine di carte si è letto Ferrari? Ho capito che è andato in pensione, però non poteva passare meglio il suo tempo, perché la sensazione è che tu sia rimasto sommerso da migliaia di parole che molti di noi non hanno mai messo tutti insieme. Ma è curioso, abbiamo fatto, beh, innanzitutto ringrazio voi di essere qui, ringrazio Alberto Costini di aver accettato di presentare questo libro, ringrazio l'editore che ha avuto il coraggio di pubblicarlo, credetemi, io lo dico sempre, ci vuole del coraggio, perché purtroppo non è quella roba, non sono le 50 sfumature di autonomia che si tengono. Che si vendono, che grigia di suo, comunque si fa fatica, ci vuole coraggio, ci vuole un'ispirazione, quindi il mio ringraziamento a Tomazzo non è né rituale né profondo che sento. Premesso questo, chi me l'ha fatto fare? Io l'ho già raccontato, ma forse non tutti erano presenti, quando abbiamo presentato in questa sala il primo libro, io ho cominciato ad avere quest'idea dall'86, poi quando tra l'altro proprio sentite tutti, puoi notare la microfono. Perché i comitari si è lontano. Allora, quando nell'86 il quotidiano che adesso mi ha letto Roberto Martini, per il quale lavoravo, mi spedisce a Roma per seguire i dibattiti parlamentari che allora stavano entrando in una fase cruciale, quella che precedeva, che precedette la chiusura definitiva, 86-90, prima per il quotidiano Alto Adige, poi per la RAI di Bolzano, li ho seguiti più o meno tutti, a Roma e a Roma. Ho cominciato a mettervi a carte, come facciamo noi giornalisti, e intanto che ascoltavo mi veniva l'idea che forse una traccia per tornare indietro nel tempo sarebbe stata quella di seguire questa cosa. Poi la cosa è rimasta lì, perché c'era un problemino di non facile soluzione, che per recuperare gli altri atti, no? Certo, l'aiuto di qualcuno era necessario per individuare. Io mi sono commosso quando tra le carte che ebbe allora ho trovato una carta firmata dal padre, di tuo padre, che si è preso la briga di farmi l'elenco di tutte le cose. Quando viene a parlare, adesso te lo faccio io l'elenco di quello che è utile e necessario nel secondo dopoguerra. Il primo dopoguerra è complicato, andavi alla biblioteca della Camera, dovevi individuare il librone, fotocopiare. E quindi tutto è rimasto lì, una serie di faldoni. Poi ho scoperto che c'era tutto su internet. Ragazzi, ma quando è cominciato non c'era internet, ma questo è il problema. Poi intanto è arrivato internet, poi ho scoperto che tutto, quasi tutto, era su internet. E qui è cominciato il divertimento, perché quando dico tutto, manca solo il Senato del Regno, che non era elettivo ma era rinominato fino al 45, credo che però stiano completando. Non penso che ci sia, credo che adesso sia rinominato, però per il Senato storia. E allora lì è cominciata, per esempio, lo dicevo prima, quando io ho detto Parlamento inglese, che nel 46 il Parlamento dove si parla più di Alto Adige non sia né il rinato Parlamento austriaco, né la Costituente, che di Alto Adige si occupa poco e male, in tutta fretta, in un pomeriggio di gennaio, approvando lo Statuto d'Autonomia, sono la Camera dei Lords, la Camera dei Comuni, dove tra la primavera e l'estate del 1946, ora anche questa non è mica, non ho mica scoperto Ferrari, ci sono anche dei libri. Ferrari l'ha messo insieme, e rileggere quei verbali di seduta nei quali prendono la parola personaggi che hanno fatto la storia del mondo, come Harold Macmillan, come Neville Chamberlain, come Winston Churchill. E discutono di Alto Adige, non so, a me ha provocato una certa emozione, la stessa cosa di leggere i verbali, non sono proprio stenografici, però sono dell'ONU degli anni 60. Uno va, entra e si può rileggere con tutte le discussioni con i delegati di tutto il mondo che discutono di Alto Adige. Però ci vuole Maurizio la bussola del giornalista, no? Vabbè, ma io fa sapere cosa cerca, no? Io ho fatto cronaca, io mi sono posto nei confronti, come dicevo anche nell'occasione del primo libro, di queste cose come se fossi in tribuna stampa. Mi leggevo il dibattito e poi facevo la sintesi, come se dovessi fare un pezzo per il giornale. Poi dopo le cose cambiavano nel cercare, chiaro, solo le quattro letture della legge costituzionale che ha creato il pacchetto del 71 sono solo la prima lettura alla Camera, sono 42-45 sedute. L'ostruzionismo missino, il famoso discorso di Almirante del 16 gennaio del 71, che dura 9 ore, e voglio dire, 9 ore senza interruzione, nemmeno per espletare una banale esigenza fisiologica, senza leggere e senza andare fuori tema, al di là dei contenuti, sono una prestazione non indifferente. Sì, ma tutto sono da Boato, battuto clamorosamente da Boato, che ne parlò 16 per la legge sul fermo di polizia qualche anno dopo. Però voi capite che a un certo punto bisogna fare sintesi, chiaramente facendo sintesi ci rischia di omettere. Per questo quando ho dato il manoscritto, i dati lo scritto in mano a Palladini quest'estate, che aveva avuto delle espressioni molto molto di lode per il primo volume, io tremavo un po' perché dico, questo era lì Ballardini, c'è roba nel deputato socialista, lui dice non se avessero lasciato qualche verbale, la commissione dice no, non farebbe più piacere lì, niente. Ma a chi Aldo Moro affida il compito di relatore della legge? A Renato Ballardini. Ora provate a immaginare questa cosa. Il leader del governo prende un giovane deputato socialista, tra l'altro socialisti all'epoca entravano e uscivano dalle maggioranze, non è che fossero incardinati perfettamente, e gli affida il compito di pilotare questa legge alla Camera, che era il passaggio più delicato, mica niente. Quindi, il fatto che Ballardini abbia accettato. Ballardini quindi c'è con la copertura di Moro, no? Sapendo, e gli scopre tante cose. Questi quattro passaggi sono stati, per esempio, che la famosa questione dell'articolo 19 dello statuto, quella sull'insegnamento del tedesco, era prevista dalla terza elementare, in corso di lavoro in aula viene portato alla seconda. Quindi non è stato un dibattito, è stato un dibattito molto duro, approfondito, è stato un dibattito nel quale è venuto fuori tutto, è stato un dibattito dal quale esce fondamentalmente la visione di Moro, questo già dal 64, e poi quando i dibattiti è dinamite, perché il titolo è quello. E sono sinonimi quasi, no? Ogni volta che c'era un attentato violento c'era un dibattito. E quindi. Però poi a un certo punto Moro dice no, bisogna andare là, bisogna arrivare a questo tipo di intesa. E salta per l'opposizione della Volkspartei l'intesa socialista tra Sargat e Treschi, Treschi se la lega cambiava il dito perché era un tipo peperino. Per cui non lo so se lo sapete, ma il pacchetto del Parlamento austriaco fu approvato solo dai popolari, fu un voto contrario dei socialisti. Se l'era negata al vinto Kreml e disse no, col mio voto non passare, si assicurarono che i voti ci fossero, però poi votarono contro. E quindi anche questa è una storia, cosa dice una notizia è una cosa, sì, capo terza serie. Ma ci c'è una cosa sul metodo, perché tu di fatto, andando a ripescare gli atti parlamentari, ti imbatti in persone e in cronologia, no? Infatti c'è prima una pezza di racconto, poi ci spieghi chi sono le persone, chi sono i protagonisti, e poi è giusto vedere, no, che vicini ai grandi statistici siano i personaggi che magari sono durati una stagione breve e quelli che invece hanno avuto un ruolo fondamentale per molti anni, e poi metti una cronologia che aiuta a capire cosa stava capitando in quegli anni. Beh, l'idea fondamentale era quella di non fare una cosa per la decena, poi non so se ci sono riusciti. Però rendendomi conto che il materiale è piuttosto complesso e che, come hai detto tu, la conoscenza anche per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per i non addetti ai lavori, a volte è scarsa. Quindi occorreva dare degli elementi. Se io nomino un politico austriaco nel corso del dibattito, almeno due righe per dire guardate che questo nasce lì, cresce politicamente lì, muore lì, che devo dire, perché mi rendo conto che per noi certe cose sono scontate, mi rendo conto specialmente per chi ha meno di un certo numero di anni, scontate non sono affatto. La cronologia serve a inquadrare questi avvenimenti, perché chiaramente il discorso parlamentare non esaurisce tutto. Certo, io faccio dei racconti, ma tante cose avvengono anche fuori dal Parlamento, che stai fermiando. Infatti lì arrivo, perché tu dici che non è uno scontro politico, non che stai fermiando. È il momento nel quale Magnago fa un capolavoro. Cioè, tutti l'hanno sempre interpretata come la dichiarazione di guerra, quando invece la dichiarazione di guerra è a quelli che volevano la guerra. Magnago era il 50%, no? Perché era quasi il 50%, come si scoprirà qualche anno dopo. Magnago dice no, non è lo scopo, è lo scoprimento. La prima autonomia è morta. Prendiamone atto, seppelliamola rapidamente e passiamo alla seconda. Ci vorremmo 13 anni perché questo arrivi a compimento, però da quella posizione Magnago non si scosta, e quelli che invece volevano l'altra soluzione, cioè la spirale violenza-repressione, guerra civile, Algeria, Vienna, che dire, Cipro era gettonatissima sulle pagine dei quotidiani locali a Cipro, perché Cipro erano intervenuti i caschi blu dell'ONU, quindi la speranza che qui in Alto Adige ci fosse uno scontro tale da imporre l'invio dei caschi blu dell'ONU che facessero, che espropriassero il governo italiano, questa era. Questo pensavano i fautori della violenza, che poi trovavano delle ottime corrispondenze da parte italiana, perché poi sempre è stata una reciproca fondazione. Su questo, Maurizio, visto che poi sono gli anni del terrorismo, quelli che ti occupi, non dico maggiormente perché ogni cosa ha un suo spazio in questo libro, quanto il dibattito influenza la dinamite e quanto viceversa, nel senso che la sensazione, devo dirti, è che un certo dibattito sia non solo grazie alla dinamite, ma si può anche rovesciare ragionamento, cioè la dinamite è arrivata dopo un certo dibattito. Io tenderei a pensare l'opposto, no? Cioè si è risposto con le parole alle bombe. Allora, questa è la domanda fondamentale, quella che torna tutte le volte che leggiamo anche i documenti ufficiali approvati recentemente, che l'autonomia è stata ottenuta grazie ai Freiheitskämpfer, agli attivisti. Benissimo. Allora, è vero che le grandi ondate di attentati, a partire da quella del giugno 61 e poi via via le altre, hanno svegliato dal loro torpore i politici italiani, che si erano convinti che con la prima autonomia concessa da De Gasperi nel 48 fosse tutto finito, il problema risolto, fine, sono tutti contenti, cosa vogliono i tedeschi, basta. Gli attentati creano un problema. Allora, le tendenze che nascono sono due, naturalmente: quella bastoniamoli e quella cerchiamo di capire come si può venire da fuori. Sicuramente gli attentati, basta vedere la corrispondenza tra gli attentati e i dibattiti, mettono l'Italia nella condizione di dover affrontare il problema. Ma la soluzione che viene fuori è esattamente l'opposta di quella che volevano quelli che mettevano le bombe. Quelli che volevano, che mettevano le bombe, volevano esattamente l'opposto, volevano, come ho detto prima, la spirale, la repressione, la repressione alimenta la guerra di popolo, l'insurrezione generale e via, ad esempio a Gelino, per dire uno di quegli anni. Avviene esattamente l'opposto, perché c'è gente che tiene i nervi a posto e dice: no, noi altra cosa vogliamo, ci metteremo 10 anni, saremo durissimi nella trattativa, la trattativa si dia. E lì questa gente a Bolzano trova qualcuno che capisce. Infatti su questo poi ti voglio interrogare, emerge anche un grande dialogo all'interno dei partiti e di un partito in particolare, nel senso che la Democrazia Cristiana aveva in quel periodo delle persone che avevano capito come uscire dal problema in questa terra, che aveva però interlocutori in modo di cui hai parlato in parte, ma ti faccio riparlare di lui, e anche di Giulio Andreotti, gli interlocutori capaci di capire quello che stava accadendo. Se non solo loro, perché poi sì, Giulio Andreotti li abbiamo messi sotto nel libro, e quindi sono i due, poi di Andreotti un attimo torneremo per parlare di quel pomeriggio di febbraio del 92 in cui lui chiude, perché è un momento veramente topico, ma Andreotti, Moro, ma anche altri, a Bolzano, dell'Ofo, ma a Trento, per esempio, presenteremo il libro a Trento tra qualche giorno, lo dirò, ho l'impressione per esempio che il ruolo di un politico come Flaminio Piccoli in tutta questa storia non sia stato adeguatamente, cioè è passata la visione del Piccoli uomo di Chesa, del quale nessuno disconosce, grande, cioè le gente discorsi a camera non è mica così, no? Che devo dire che negli anni 70 questo emerge con chiarezza, cioè Piccoli riesce a portare la Democrazia Cristiana trentina, che era uscita massacrata dall'esperienza della prima autonomia, su posizioni diverse, si può tradire che tutto sommato ha fatto l'interesse del Trentino facendo questo, ma non è stato semplice, non è stato facile, e soprattutto dietro non c'era solo una questione di interesse, c'era un recupero di quella concezione degasperiana dell'autonomia come strumento di soluzione di convivenza, che era nata nel settembre del 46 a Parigi e che poi Moro recupera, e che Andreotti porta a conclusione al modo di Andreotti, che c'è sempre, c'è nel 45, c'è nel 47, lui c'è sempre, però c'è sempre con una visione estremamente lineare, stretta della situazione, non si lascia affatto mai condizionare dalle cose. Andrea c'è e ha un'intuizione finale, mentre se lo dico io ero presente quel giorno, in quel pomeriggio di febbraio a Roma, nel quale il governo Andreotti si congeda dalla Camera. È l'ultimo giorno, il giorno dopo la legislatura è finita, e con quella legislatura è finita anche la prima Repubblica. Mani pulite è già iniziata, la dissoluzione è già iniziata, tra poco non ci saranno più le DC, le PSI, le PRI. È l'ultimo atto della prima Repubblica. Bene, in quel discorso una parte rilevante è dedicata ad Attorici. E lì Andreotti fa il riassunto e dice: bene, signori, noi ci congediamo da voi, da questa lettura, con questo lascito. La questione è chiusa, poi ci vorranno 2 o 3 mesi per liquidare le questioni residue, un dibattito al Parlamento austriaco, dove anche lì ci saranno solo contrari, solo i Freiheit e di Heider, e poi la consegna della pietanza. Però cosa sarebbe successo se le fosse dimenticate in un cassetto? È stato giustificatissimo col bailar di quei giorni, sì, lasciamo perdere, ci penserà il prossimo governo. E se il dossier fosse arrivato in tonso 2 anni dopo sul tavolo di Berlusconi? Di usare una cautela sicuramente superiore. Sta giusto a dare silenzio ormai, però una cosa è trovarsi un prodotto confezionato, bello impacchettato da portare ai centri, cioè vedete come sono bravi. È una cosa, avendo enti, cioè gli eredi delle messe di governo, è doversi pigliare. Io continuo a ritenere che abbiamo avuto una grande fortuna che Andreotti abbia deciso quel giorno di febbraio di chiudere. E anch'io chiudo il mio libro con quel giorno, perché dopo, sinceramente, tante cose sono successe di Andreotti, ma la questione. Ma tu dici apertamente, no? Dici la questione è tua tesina. Basta. E dici anche, chi dice il contrario dice. Ma no, ma qui il problema è che naturalmente i politici devono darsi importanza, devono far capire anche loro, i nuovi, che sono come Magnago, come Rizzi, come Benedetti, per cui hanno. Ed è anche vero, però la questione a livello internazionale, basta andare a parlare con i politici a Vienna, su questi nuovi non lo so, per sapere che. Ok, basta adesso. La questione è chiusa, le cancellerie internazionali delle grandi potenze ci hanno messo un timbro e l'hanno fatto apportare negli archivi, con grande soddisfazione. Visto che prima parlavi di piccoli, devono far dire una cosa su questo. La risposta è: perché a Trento si ragiona sempre come a Bolzano in termini numerico, per cui ci si basta, per cui si guarda quello che si fa nell'autonomia trentina e si tende a considerare in questo caso scontato quello che accade a Roma. Per esempio fra Piccoli e Chiesa, in quei giorni, in quegli anni, c'è un dialogo continuo, un gioco delle parti, diremo oggi, straordinario, solo grazie a questa intesa e grazie a questo ping pong si riusciva a realizzare questo. E in Alto Adige il ping pong chi lo faceva? Lo facevano Berloffa e Moro, lo facevano Andreotti e altri, e perché volevo farti parlare anche un po' delle persone che hanno costruito questa storia, di quelli che magari nemmeno tu ti ricordavi quando hai visto questa carta e di quelli invece dalle quali sei partito. Io faccio una piccola premessa, la cosa più buffa l'ho raccontata ad alcuni amici, è che io, come dicevo, ho seguito personalmente i dibattiti dall'86 poi. Mentre lavoravo, andavo avanti nel tempo, dicevo, mi misuravo i dibattiti del 70, del 60, beh adesso quando arrivo a quelli dell'86 sarà una passeggiata di salute. È stato terribile rendervi conto quanto la memoria sia fallace, cioè quanto io confondessi le cose che avevo visto personalmente, quindi ho dovuto mettere via tutto, cancellare e tornare a lavorare sulle carte proprio per i dibattiti che avevo visto, perché facevo confusione fra una cosa e l'altra. Sono stati dei passaggi. Detto questo, a Bolzano c'è l'asse, per quanto riguarda il gruppo italiano, tra Berloffa e Moro, che poi diventa un asse tra Berloffa e Andreotti, un po' più accidentato, perché i due si pigliano meno e sono destinati a pigliarsi meno, perché mentre Belloppa e Moro vengono dalla stessa politica, vengono dallo stesso albero, con Andreotti. Però c'è, poi però Belloppa deve confrontarsi con dei periodi. Noi ricordiamo quando andò al governo Craxi e il legame con Belloppa, che resta presidente della commissione, si interrompe e Craxi vuole fare per conto suo, piomba a Bolzano in una giornata raccontata meravigliosamente da Piero Costini nel suo libro La convivenza rinviata, questa giornata di Craxi a Bolzano. Io ero lì giovane, cronista di una televisione privata, un pranzo alla mensa di una caserma che non esiste più con gli militari, 22 incontri, gente maniaco atterrito perché gli si era rovesciato il mondo, e però poi, e quindi poi dopo faticosamente riprende i passaggi, però i passaggi chiave poi è quello dell'81, quando l'Anche e i suoi mettono le gabbie etniche davanti a Montecitorio. Perché lì veramente ci sono alcuni passaggi nei quali l'edificio scricchiola assai. C'è un passaggio parlamentare nel quale la Fospa è completamente isolata e lì non si sa bene come uscirne. E le difficoltà, io le ricordo, di ripigliare lentamente, progressivamente le chiavi di un'intesa e di portare a conclusione norme difficili come quella sull'uso della lingua dei tribunali, la contestatissima legge che toglieva un seggio senatoriale al Trentino, lo dava all'Alto Adige, la legge del dibattito è divertentissimo, perché le ragioni per le quali non funzionava Trento aveva 4 seggi senatoriali ed era e siccome la popolazione era stessa, pure nelle alleanze, visto che parlavi socialisti, cosa Mascagni, qui c'è qualcuno in sala, credo che sia stato eletto grazie in un collegio proprio grazie a quelle intese, però resta il fatto che il collegio era, e quindi quando si crea questo famoso collegio Bolzano Valsantesina che occuperà le cronache del quotidiano e quotidiano nei prossimi 3-4 continuare. Poi gli hanno cucito addosso anche un seggio alla Camera, che sarà l'oggetto del dibattito dei prossimi mesi. Ecco, quello è anche un altro passaggio rilevante, interessante. E alla fine, con infinita fatica, perché c'è chi frena, c'è chi non vorrebbe chiudere mai, c'è chi vorrebbe lasciare la cosa sempre aperta. Uno di questi, Alfons de Witter, che ha fatto. Sicuramente ha dato un grosso contributo, ma che temeva la chiusura come un fatto cioè la pedita deve rimanere aperta perché non si sa mai. E quindi nel 92, però, a un certo punto, non solo da Roma, non solo da Bolzano, ma credo anche da Vienna, da una Vienna che ormai pensava di aver dato abbastanza ai sud tirolesi e voleva entrare in Europa. Oggi qualcuno a Vienna vorrebbe uscire, come cambia. Io ricordo sempre che Alois Mock, il ministro degli esteri, quando Vienna decide di entrare nell'Unione Europea, la prima persona a cui lo comunica a Roma è Giulio Andreotti, e lì si sa da un'intesa che alla fine porta a convincere chi a Bolzano era già abbastanza convinto di dover chiudere. Diciamoci anche lì, noi cronisti esasperammo questa situazione, ma il congresso finale vede una vittoria nettissima. Non è il congresso del 69, non è il, credo, 80 e niente, una cosa del genere, a favore della chiusura, a favore della conclusione e l'inizio di una nuova storia. Ma visto che giocavo con i nomi, mi sono segnato Bettiola e Paglietta, no? Nel senso che ci sono dei nomi che tutti ricordano, che tutti collegano. Se mi dico Bettiola e Paglietta, cosa ti viene in mente? Paglietta. Io è solo leggendo il libro di Ferrandi che ho ritrovato un Paglietta che aveva un. Beh, soprattutto Paglietta. Paglietta è stupendo perché una tematica di titolare mangiato paglietta, no? Ma sì, ma è il discorso dell'atteggiamento comunista, ecco, questo ci offre cosa di dire un paio di cose. L'atteggiamento comunista è un atteggiamento estremamente coerente da un lato, però che per esempio la polemica furibonda in tutti gli interventi dei comunisti contro il rinascente revanchismo militare tedesco, di cui certi ambienti altoatesini erano considerati, era evidentemente un portato delle concezioni strategiche di Mosca, che vedeva nel rialzo di Berlino, o del Berlino, insomma, di Bonn, un pericolo, e quindi. Ma un altro dato era l'austriacante de Gasperi. L'austriacante de Gasperi non era solo un attacco della destra, era anche quando Paglietta dice: ah, ma voi siete gli austriaci, invece che appoggiare il doloroso popolo socialista jugoslavo, caro De Gasperi, non lo ricordo, ma voi, i vostri amici di Vienna, sempre insinuando questa non italianità, che voglio dire, da un ammirante te lo aspetti, fa parte delle regole del gioco. Però dopo questa ci sono tanti passaggi interessanti, no? Però alla fine nel 72, quando c'è la seconda lettura della legge sul pacchetto e bisogna evitare di andare al referendum, e quindi bisogna approvare la seconda lettura della legge con una maggioranza qualificatissima, cioè la maggioranza dovuta degli partecipanti all'assemblea, e i comunisti e la sinistra indipendente votano a favore, si erano astenuti sulla prima lettura e votano a favore, e si evita un referendum che sarebbe stato lacerante nell'Italia negli anni 70. E questa è una scelta politica di fondo, anche questa ottenuta attraverso una pazientissima mediazione di Moro e degli altri, e hanno portato a casa un risultato di assoluto rilievo. Che la Fospata non conosca il termine gratitudine, lo dice poco dopo il senatore Brugger, che peraltro sul pacchetto non ha mai smesso di manifestare. Ma è anche questa la storia, dice la Fospata e il pacchetto. La Fospata aveva tre deputati, uno dei quali ha votato fuori, è uscito dal partito, è andato fuori dal partito, però ha votato fuori. E al Senato Brugger ha votato, si è astenuto, ha fatto finita, non era in aula. Però, quindi, una buona parte della delegazione parlamentare della Fospa, detto il pacchetto con l'autonomia, non lo voleva, non gli sembrava abbastanza. Ma il tuo è anche un libro sulle voci soffocate, non lo è all'inizio davvero, perché ci sono voci che nel 45 iniziano a farsi di nuovo sentire, ma lo è anche in altri periodi di questi 47 anni, no? Ci sono tante voci che qualcuno cerca di cercare. Hai notato prima quella di Aldo Spiffler. Aldo Spiffler, c'è un bellissimo libro di Günter Palaver e di Ponti Storia, che anche questo è un personaggio emblematico, perché questo è un avvocato, un Dableiber, un cattolico, perseguitato dai nazisti, deve scappare in Svizzera, ci rimette la salute con la donna. E quando torna, ovviamente nel 45 è un fiore all'occhiello per il mondo di quel momento, la neonata Fospata ha bisogno di questi personaggi per accreditarsi, e gli dicono: no, non vengo perché lì dentro vedo già delle persone che mi hanno perseguitato, ma l'unità del popolo non me ne frega niente. Allora però cosa succede? Succede lui a fare delle forti relazioni in ambienti politici trentini, lo reclutano come l'unico componente sul tirolese della Consulta. Ora, io devo mettere, non si vede che quando ho fatto il diritto costituzionale all'università ero disattivo in parecchi altri casi. Ma questa della Consulta. Ma si è laureato sulla Corte Mussolini. Io questa storia della Consulta non me la ricordavo bene, vagamente. Che prima della Costituente d'Italia ha avuto un mini Parlamento di nominati, veramente, che elaborò le primi passaggi. E la Spiegel funzionava, però, perché la Fospata lo utilizzava come strumento di collegamento con Roma, la Fosfatec non ha partecipato alla consulta, perché in quei mesi siamo tra i 45 e il, diciamo nel 45 non poteva votare, non si votava, ma soprattutto quello non è che la costituente, ma anche prima detto, no, noi non partecipiamo, non era ancora sciolto. Il coso Bolzano si torna a votare solo nel 48. Le prime elezioni in cui si torna a votare a Bolzano sono quelle famose dell'aprile 48, post-costituente, ma tre anni dopo la fine della guerra, per tre anni non si vota, e lo stesso nei comuni, poi si voterà nella regione. Il comune di Bolzano, per motivi imprescrutabili, si votò ancora più tardi, quindi ci vuole del tempo prima che si riallacino i rapporti, e prima non so chi ne parla delle abitudini di questi giorni di contrattare così. Beh, sì, d'accordo, sono venute abitudini recenti, ma si comincia già negli anni 50, quando un paio di governi di centro-sinistra in crisi hanno bisogno dei voti della Fosfatec, e come hanno giustamente messo in luce di l'Italia, ci sono stati governi in crisi che hanno bisogno di che abbiamo sempre l'idea che allora non succedesse, la Fosfatec era accusata, questi governi, di aver fatto, di aver comprato i voti della Fosfatec con delle concessioni, per esempio sulla chiusura dell'ufficio zona di confine, come gli storici che allora, come sempre, non si saprà mai se è vero. Dici magari qualcosa di questo fetacino, l'ufficio zona di confine, anche di Silvio Innocenti, che era stato prefetto di Bolzano, insomma, è una pagina qua ci sono, abbastanza sconosciuta, soprattutto no, meglio, ma torna ogni tanto usata a livello strumentale. Beh, qui c'è una, guarda, devo, qui c'è un grosso lavoro che alcuni storici, che Giorgio Mezzaliera, hanno fatto sui documenti finalmente tornati alla luce dopo mille avventure, dopo mille traversie dell'ufficio zona di confine. Ci sono diversi libri, alcune cose stanno venendo fuori. Questo ufficio zona di confine era sostanzialmente lo strumento operativo che i governi dei Gasperiani adottano, dipendendo direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, con grande sforno del Ministro del Ministero degli Esteri, che per le zone di confine. Ora poi le zone di confine erano sostanzialmente due, eravamo noi e soprattutto Trieste, che era molto più problematica, perché lì rischiava, l'Italia rischiava grosso, si rischiava la guerra, si muovevano i carri armati, si mandavano armi, si mandavano non solo soldi, tanti soldi, nel Trentino arrivarono tanti soldi, distribuiti un po' così, per l'italianità, le parrocchie, le associazioni, se ancora mi chiedono, ma quanti allora vi confesso che non riesco a ricostruire questa storia, cioè, sì. Che è noto, nel senso che il contributo è, ma oggi, 72 anni dopo, all'attuarsi non c'è traccia di archivio, di una carta che sì. Posso capire anche perché ci intendiamo, cioè, però davvero ci ho anche provato, nel senso di pure che non c'erano carte, non si lasciano carte. Recentemente anche su queste carte è uscito un libro, Andreotti e le zone di confine, nel quale questa parte la litigata furibonda tra i democristiani di Trento e di Bolzano, perché i democristiani di Trento piccoli avevano l'Adige, i democristiani di Bolzano avevano l'Alto Adige, perché il leader democristiano di allora, l'onorevole Facchin, era presidente del Consiglio di amministrazione del giornalista regionale, e gli uni e gli altri litigavano davanti all'ufficio zona di confine per chi doveva avere la priorità nei finanziamenti, mentre tuo padre ha ricostruito perfettamente la storia dell'assegnazione ai due giornali di quello che era rimasto dei giornali fascisti. Diciamo che è una storia interessante anche quella, e che poi trova il suo riflesso anche nel dibattito parlamentare, perché poi la presenza di Facchin, che è un altro illustre dimenticato della situazione, che è rappresentante di una proposta cristiana che viene sconfitta alla fine degli anni 50 proprio grazie all'intesa tra i vertici nazionali e la sinistra di Cinderoffa, con il commissariamento della Democrazia Cristiana affidato a Lidia Menapace. E anche questa è una storia che non tutti sanno, che Lidia Menapace, la giovane consigliera Lidia Menapace, soprannominata l'Amazzone Bianca dai suoi detrattori, diviene la commissaria e assieme a Fari cambia tutto la democrazia cristiana, e questo è un passaggio che diviene poi essenziale per quello che era dopo. E mentre io mi pensavo che di solito si fatica a chiamare i cronisti storici, però tu sei uno storico cronista, no? Questo si può dire, no? Per cui mi salvo dicendo che sei uno storico cronista. Lo storico cronista, due domande: che idea si è fatto rispetto alla questione Friuli Trentino Alto Adige? Cioè, è vero che De Gasperi, come asseriscono in Friuli Venezia Giulia, a un certo punto li ha scaricati per occuparsi solo della sua terra? De Gasperi ha questa sorte di essere detestato, uno dei posti in cui incontra meno simpatia è proprio l'Alto Adige, non mi ha mai perdonata, però direi che la situazione, beh, io tutte le volte che mi occupo di Friuli Venezia Giulia intravedo degli elementi di similitudine con l'Alto Adige e un elemento di differenza, una quantità enorme di sangue in più da quelle parti, che racconta di un po' di dinamite sparsa qua e là, di qualche vittima alla quale va reso opportuna, se mettiamo insieme tutti i morti di questione della Tordesina, 18 ad oggi in Friuli Venezia Giulia li facevano una in Venezia Giulia in qualche giorno. In qualche giorno, per cui in tutte le famiglie sono quelle situazioni. Io ci ripensavo guardando la situazione catalana, sapendo cosa è successo anche a Barcellona dopo la fine della guerra civile, durante i dopo. In tutte le famiglie ci sono ricordi di morti, di sangue e di orrore. La vicenda sul confine orientale è fatta di morti, di sangue e di orrore. In Alto Adige gli scontri ci sono stati, qualche morto c'è stato, però questa è una differenza sostanziale. Ma venendo alla tua domanda, no, De Gasperi qui può essere le condizioni nel 1946 di applicare la sua vecchia dell'autonomia come strumento. Poi che la prima autonomia non funzioni granché bene, male, malissimo, secondo alcuni o meno, secondo altri, però il concetto di fondo del 1946, in un momento in cui in tutta Europa i tedeschi venivano massacrati, uccisi, basti pensare alla Prussia orientale, basti pensare alla Slesia, venivano deportati, venivano uccisi. Qui De Gasperi intuisce che la soluzione a lungo termine può essere quella della compressione reciproca e del dialogo. Che poi le cose non siano andate sempre benissimo, però quell'intuizione resta. Ed è l'intuizione che nel 64 Moro riprende e porta avanti, e che nel 92 trova la sua conclusione a livello di vertenza internazionale. Ti faccio un'ultima domanda prima di aprire al pubblico, che fra l'altro è fatto anche di molti cronisti che possono partecipare al dibattito, evidentemente. E ti faccio una domanda per interessi d'ufficio, come si dice, nel senso che tu sai che io ho sollevato il tema dell'autonomia provvisoria, l'ho fatto apposta per stimolare la politica in Trentino e in Alto Adige a intervenire e porsi questa domanda, e ti dico: secondo te De Gasperi, 72 anni, all'inizio del tuo libro, mettiamola così, si immaginava uno strumento definitivo o uno strumento provvisorio che per un certo periodo consentisse a questo territorio di riprendere il passo rispetto ad altri territori? Le autonomie speciali in quegli anni nascono come risposta di uno Stato che di autonomia non capiva nulla, come del resto capisce poco oggi, ha delle situazioni contingenti, il separatismo siciliano, la questione di Trieste terribile, drammatica, e l'isolamento sacco, problemi di Valle d'Aosta che erano già con la tenuta di soldi perché De Gaulle aveva messo via le sue. In Alto Adige De Gasperi, secondo me, ha un'idea che questa terra, qui viene dalla sua esperienza prima della guerra, al Parlamento austriaco, da quella richiesta di autonomia che i trentini avevano inutilmente fatto dalla fine dell'Ottocento fino alla scoppia della guerra, che l'autonomia qui, in un posto dove si confrontavano, dove si scontravano, dove vanno a stridere l'una contro l'altra due grosse nazionalità e due grandi nazionalismi fosse l'unico modo di tenere. Io non penso che lui pensasse ad una soluzione così. Pensava che l'autonomia regionale, della quale lui voleva inserire il suo Trentino proprio perché si ricollegava a quel concetto, potesse recuperare queste antiche volte. Io penso che lui pensasse a una soluzione definitiva, a una soluzione a lungo termine. Questi ultimi 25 anni, lo dico anche guardando il tuo editore, non meritano più un libro. Ma non lo so, lo scriverà qualcun altro, qualcuno che si occupa, forse non so se su internet si trovano le cose che avvengono nelle anticamere dei sottosegretari, sui campi da tennis, cioè io ma non mi sento personalmente puramente casuale, cioè, pare che le ultime trattative si siano svolte sulla terra rossa. Io personalmente sono andato in pensione 4 anni fa, quindi fino a 4 anni fa l'ho seguita con una certa. Io non ricordo dal Parlamento, dopodiché la storia può essere benissimo scritta, per l'amor di Dio. Però non passa più nelle ore ufficiali. Però dal Parlamento ci sono così dei momenti, il blitz della mia confiore, il blitz il primo, già pochi mesi dopo la chiusura, Carferrari che fa approvare al Senato la norma sul bilinguismo nei concessionari del lavoro. Ma sono delle cose che non avvengono più attraverso un confronto. È una, come Zeller ha detto, quando abbiamo presentato il primo volume a Merano, è stato disarmante. Dice, noi dobbiamo stare zitti perché se sapessero cosa stiamo preparando ci bloccherebbero. Quindi noi interveniamo all'ultimo secondo, facciamo quello che... Che cosa vuoi raccontare? C'è una storia di agguati. Non fa per niente, senza microfono. Non so se qualcuno ci aiuta, scusami se ti chiedo questo mestiere, grazie. Grazie. Allora, lasci per sempre, è una cosa no, no, no, dopo mi mai mollare il microfono, piuttosto, prego. Allora, possiamo dire da Vaspare, e cioè quel che è stato, e che tutto quello che riguarda quel pezzo di storia è divenuto per tutti gli abitanti della regione il tormento dell'inesprimibile, perché nel Sud Tirolo non è stato ancora affrontato l'Historienstreit, e cioè la contesa fra gli storici sul passato che non passa, nel mentre invece è stato affrontato in Germania ma non in Austria. Grazie. Io prima di fare questi due volumi ho fatto un libro che riguardava un po' quello che io credo di aver intuito il rapporto tra Mussolini e Alto Adige, e terminava proprio con questo concetto: l'Italia e l'Austria sono tre paesi europei, quelli che forse meno hanno fatto il confronto con il proprio passato. L'Alto Adige, dove Austria e Italia si incontrano, è il posto in cui ancora meno abbiamo voglia di fare il confronto con il nostro passato. Le polemiche di questi giorni sulla scritta in piazza del Tribunale lo dimostrano ampiamente, e fare conti col proprio passato significa anche andare a rileggere, forse per questo l'ho fatto, le cronache dell'altro ieri per capire l'oggi, perché è essenziale capire che, per esempio, in quel Parlamento, in quei dibattiti, c'era chi si è battuto alla morte contro questa autonomia. Tutta la destra, e non solo la destra, contro questa autonomia si è schierata una parte importante anche dello Stato italiano. Però c'è chi ha tenuto duro, e oggi vedo con divertito stupore quelli che la volevano affossare, anche qua in Alto Adige, che se ne fanno scudo e la vantano addirittura come una propria come una propria realizzazione. No, c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso. E sarebbe ora di cominciare a dire che c'è che chi ha perso, prima di rientrare in gioco, che si può sempre, farebbe bene ad ammettere di aver perso. Sarebbe simpatico che ci alzassero e ci dicesse: abbiamo perso, abbiamo scommesso su un alto adige povero, pieno di morti, pieno di sangue, invece c'è un alto adige ricco, con dei problemi. Ma ha vinto chi ha scommesso ancora su queste cose, non chi voleva l'esatto contrario. E invece sia la parte italiana che la parte tedesca, allora, tutti sul carro del vicino. Chi che a volte dà un po' sui nervi, vediamolo. Sembra di essere in Italia. Una volta questi ammettessero, sì, quando volevamo la guerra civile, quando volevamo lo scontro, quando volevamo la parte italiana, ancora ne vanno nelle orecchie, il commissariamento dell'autonomia, basta, 4 battaglioni dell'esercito, autonomia commissariata, filo spinato dappertutto, e poi? No? E quelli che ci hanno rimesso la carriera politica, o almeno che sono stati, come Bellofa, che sono ancora oggi a dannazio memoria, no? Traditore. Capita a me, capita di sentirmi dire questo. Andiamoci piano. Anche dall'altra parte, perché è una storia che racconto sempre, ormai si è elaborata, forse. Quando suo padre, dando il premio per Hitler, la laudazio ufficiale è Magnago. Magnago sa, dice tante belle cose, e dice: no, fai uno che ci ha aperto molte porte. No, caro, non era uscire. È uno che ha avuto la capacità di relazionarsi con un'altra testa lucida come il Duca di Morra e intravedere la strada, che poi non tutto quello che sia uscito forse va in modo. Altre domande, altre considerazioni? Vuol dire che leggiamo il libro, io ringrazio, io e l'editore speriamo di sì. Ecco, ringrazio Maurizio, ringrazio anche l'editore, perché sono gli editori coraggiosi per fare questi libri. L'unica cosa che vi chiedo è di non smettere, nel senso che se c'è una cosa che stiamo perdendo la memoria, per cui chi come te ha voglia, piglio e capacità, continua a coltivarla. Grazie, buonasera.